as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, benvenuti oggi ad Il Pane e le Rose, puntata per obbligo di appartenenza, perché Il Pane e le Rose nasce come trasmissione dei metalmeccanici, poi si è evoluta in questi anni, ma siamo metalmeccanici, nasce proprio la prima puntata del Pane e le Rose. Chi vuole andare nel podcast Il Pane e le Rose potrà trovarla. Abbiamo fatto con il delegato della FIOM del reparto corse Ferrari, il delegato per eccellenza del reparto più iconico dei metalmeccanici d'Italia. Okay? Ecco, c'è un evento che è accaduto sabato, questo sabato, la firma, la sigla del contratto dei metalmeccanici di Federmeccanica. Ricordiamo a tutti, abbiamo già parlato, è stato firmato il contratto dei metalmeccanici, quelle delle cooperative metalmeccaniche, di Union Meccanica. Mancava questo di Federmeccanica, che è chiaramente il contratto che riguarda 1,5 milioni di lavoratori metalmeccanici in Italia, dunque il più grande dei metalmeccanici. È un contratto importantissimo che la storia italiana, ma dai tempi degli anni 20, insomma è stata la storia dell'Italia, il contratto metalmeccanici negli anni 70, anni 60, anni 80, nel bene e nel male. I metalmeccanici hanno fatto la storia contrattuale, sindacale e anche politica, in un certo senso, dei lavoratori italiani. Questo contratto è un contratto che verrà presentato molto probabilmente come un contratto importante, innovativo, una svolta. Noi però, siccome il contratto sarà votato da tutti i lavoratori, voglio ricordare che questo non è una cosa scontata, è una cosa che si è conquistato, che il fatto che il contratto per essere valido tra i metalmeccanici deve essere votato e la maggioranza dei lavoratori deve votarlo, non è scontato. Purtroppo molti lavoratori, molti cittadini italiani dimenticano, se lo sono scordati questa cosa qua, io lo noto, ed è una cosa importante. Ecco perché se i metalmeccanici oggi sono quelli che fondamentalmente tra i lavoratori italiani sono quelli che per loro la democrazia, e adesso anche per Film e Wilm, visto che anche loro parteciperanno anche all'ultimo contratto, hanno partecipato anche quello prima, al voto referendario, ed è giusto sentire le opinioni di chi ha votato a favore e chi ha votato contro nell'Assemblea Generale dei Metalmeccanici, in questo caso della FIOM. Abbiamo come prima puntata, abbiamo pensato di intervistare chi ha votato contro, il nostro caro amico e compagno Paolo Brini, il cantante anche della banda dell'Emilia Rossa, che fa anche il funzionario della FIOM e comitato centrale, come lo sono anch'io, ha votato contro, e era giusto ascoltare innanzitutto chi, le ragioni del no. Poi sentiremo le ragioni del sì, ne faremo altre di puntate, sperando di intervistare qualcuno che, insomma, il contratto come Paolo l'ha vissuto direttamente, visto che Paolo era lì, io non faccio parte della delegazione trattante, lui sì, e dunque ed è giusto ascoltare chi era lì presente, che ha vissuto minuto per minuto quello che è successo. Speriamo di intervistare settimana prossima qualcuno che chiaramente è per il sì, e questo per noi è importantissimo, perché fa la storia questo contratto, farà la storia nel bene e nel male, purtroppo. Diamo un pezzo musicale e poi ci sentiremo Paolo Brini e poi piccole conclusioni brevi. A dopo. Padrone non vado esordio, dice sempre fatica, e noi ci mangiamo limone per due sordi caccerà, per due sordi caccerà. porta che azzoppa tutte cose, e una botte ci ha guiuto là, e una botte ci ha guiuto là. Ciao Paolo, questa è la prima puntata che noi facciamo per quanto riguarda il contratto nazionale dei metalmeccanici, è stato siglato sabato, oggi domenica c'è stata l'assemblea generale che anch'io ho partecipato online, e purtroppo non ero presente, anche tu, ma tu sei stato comunque partecipe, hai fatto parte della delegazione trattante, oggi sei intervenuto. Io chiaramente lo dico ai nostri ascoltatori, la penso come te, infatti facevo parte della stessa organizzazione, sono sindacato della stessa area all'interno del sindacato, ricordo tutti quanti la giornata di marzo. Vorrei che tu spiegassi il tuo voto contrario che c'è stato, perché tu alla fine hai votato contro, se non mi sbaglio, visto che ti sei espresso nell'intervento che hai fatto contro questo contratto, spiegando ai lavoratori metalmeccanici la tua posizione. Chiaramente adesso poi faremo un'altra puntata in cui faremo parlare quelli che sono favorevoli a questo contratto per par condicio, insomma, per correttezza, però volevo anzitutto far parlare te, che sei stato da quelli che hanno fatto degli interventi in cui hanno detto chiaramente che erano contrari, che secondo te, come altri, in totale 8 hanno votato contro, e poi adesso io, alcuni compagni sono astenuti, vabbè, non parliamo di chi si è astenuto, e poi una stragrande maggioranza ha votato a favore, adesso non ho visto i numeri di chi ha votato a favore, poi tu se lo vuoi dire. Insomma, spiegaci questo contratto inizialmente e anche poi spiegaci anche le motivazioni che ti hanno portato a votare no. Ciao Gianplacido, ciao a tutti, grazie per l'invito a questa puntata. Ma guarda, per quello che riguarda le ragioni del mio voto contrario assieme ad altri 7 compagni al Comitato Centrale della FIOM in merito a questa ipotesi di accordo, la ragione è molto semplice, e cioè io penso che quanto è stato firmato in termini di aumento salariale sia assolutamente insufficiente, cioè un aumento di 205 euro in 4 anni a fronte di una richiesta di aumento di 280 euro in 3 anni, quindi sostanzialmente più o meno il 55% dell'obiettivo che ci eravamo fissati, è assolutamente, come dire, un risultato non sufficiente per nulla. Non è sufficiente sia per quello che riguarda, come dire, le esigenze che i lavoratori hanno in termini salariali, dovuti alla perdita di potere d'acquisto che i salari stanno subendo e di cui ci parlano tutti i giorni, tutti i giornali, compresi quelli dei padroni, e anche, se io penso, in proporzione, in rapporto anche alla lotta, alla mobilitazione che abbiamo portato avanti nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. Se penso che non solo questo è avvenuto con aumenti salariali di questo genere, ma che per di più, come dire, non si è riusciti a risolvere il problema dell'assorbimento degli aumenti sui super minimi. Se dall'altro lato si è scambiato questo aumento con una cessione di diritti da un certo punto di vista, nel senso che si è aumentata la flessibilità dell'orario di lavoro attraverso un aumento delle ore di plurisettimanalità utilizzabile e anche di sommatoria tra plurisettimanalità e straordinario comandato, e oltre a questo si sono dati altri due permessi annui retribuiti, due giornate di permessi in più all'utilizzo collettivo da parte dell'azienda per le sue esigenze. Evidentemente questo significa aumentare la flessibilità, significa aumentare di fatto l'orario di lavoro e quindi l'esatto contrario di quello che c'eravamo prefissati in piattaforma. E questo credo che, come dire, renda totalmente inaccettabile questo tipo di risultato. Se poi io faccio un conteggio del montante complessivo, addirittura viene fuori che quello che ha firmato Federmeccanica come montante è inferiore addirittura a quello che si è firmato sia per il contratto delle cooperative che, se considero solo i 2 anni, anche quello di Union Meccanica. Come purtroppo avevo detto a giugno, quando si è firmato il contratto delle cooperative, sono stato facile profeta ovviamente, quella firma lì avrebbe segnato il tetto massimo degli aumenti del contratto nazionale, di tutti i contratti nazionali dei metalmeccanici. Purtroppo così è stato, e quindi questa è assolutamente una piattaforma che io non reputo all'altezza, e per questo io penso che debba essere respinta, deve essere riaperta l'avvertenza, lo scontro, il tavolo, ma anche la lotta e la mobilitazione. L'altra domanda che ti faccio è: cosa avrebbe dovuto fare la FIOM, no? In una situazione in cui, così come si è visto, Federmeccanica aveva chiaramente messo la FIOM in una situazione di difficoltà, no? Perché alla fine è chiaro che questa situazione si è potuta creare anche perché Federmeccanica è stata anche scaltra nel mettere la FIOM Fiume Wilm in una situazione in cui ha rilanciato tutta una serie di questioni, come tu ben hai spiegato, che chiaramente a un certo punto la trattativa si è trovata in una situazione di difficoltà. Secondo te cosa avrebbe dovuto fare la FIOM? Io non sono per nulla d'accordo con questa analisi che dice che Federmeccanica ha messo in difficoltà il sindacato. Io penso che nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, siamo stati noi, è stato il sindacato che con le lotte ha messo in difficoltà Federmeccanica. Per la prima volta noi abbiamo visto una compagine padronale spaccata, con addirittura prese di posizione pubbliche di grandi gruppi per arrivare alla firma del contratto. C'era una difficoltà evidente nel campo avverso, E penso che l'errore che noi abbiamo fatto è stato non sfruttarlo, non affondare il colpo, ma dopo le 40 ore di sciopero, dopo il blocco della tangenziale in cui abbiamo dimostrato la forza che hanno e che potenzialmente potevano avere i metalmeccanici continuando la lotta, è stato sufficiente, come dire, un appiglio da parte di Federmeccanica a riaprire il tavolo per bloccare tutto, fermare gli scioperi, fermare il blocco degli straordinari e quindi permettere a Federmeccanica di riprendere. Prendere fiato, ricompattarsi e inevitabilmente accettata questo terreno, accettato il percorso di Federmeccaniche, cioè di discutere di tutte le cose per ultimo del salario, di rimettersi sul loro terreno anziché su quello che era il nostro, e ovviamente questo non poteva che portare a questa situazione. Perciò noi avremmo dovuto, come dire, imporre la riapertura del tavolo, cosa che era assolutamente possibile, dato le difficoltà in cui era Federmeccanica, e di farlo però proseguendo la lotta, non fermando tutto e battendo i pugni sul tavolo e rivendicando i contenuti della nostra piattaforma, senza dare a loro alcun salvagente, alcuna possibilità di rifiatare e ricompattarsi. Questo è stato il nostro vero errore, come a livello sindacale. Terza ed ultima domanda, io te la faccio in maniera un po' più generale, nel senso che adesso ci saranno le votazioni, chiaramente sarà difficile per chi come te e come altri compagni che sostengono il no, andare in giro a spiegare le motivazioni del no, perché sappiamo. Ormai sono tanti anni, sono 25 anni che sono in fiamme. Purtroppo spesso le ragioni dell'opposizione, sia contrattuali che congressuali, vedono se c'è più difficoltà, siamo meno, andare nelle assemblee a spiegare la nostra posizione. Dopo questa, molto probabilmente, chiaramente il sì passerà, sappiamo benissimo, ma secondo te come potremo cominciare una battaglia per far sì che tutte le cose che tu ci hai spiegato, che hai giustamente, secondo me, messo in evidenza, le riusciamo a superare, a passare. La lettera H, che non è un problema solamente per noi metalmeccanici, il patto per la fabbrica, non solo per noi, è un problema anche per altri lavoratori. Secondo te come dovremmo agire? Cosa possiamo fare? Ti dico subito che a me molta gente che è delusa, che lavora con me, ma non solo che lavora con me, tanto altre parti d'Italia, sapendo come la penso, mi ha scritto che sono molto delusi, hanno avuto, insomma, sono rimasti male perché si aspettavano stavolta dalla FIOM qualcosa in più. Qualcuno addirittura vorrebbe andare via dalla FIOM. Spiega un attimo, invece quello che dovrebbe fare un metalmeccanico iscritto alla FIOM o che non è iscritto alla FIOM e comunque ha partecipato a queste battaglie. Con questa domanda ti lascio e ti ringrazio per la tua disponibilità. E ci sentiamo al prossimo album che avrai sicuramente a presentare qui in radio. Ciao Paolo. Ma come dire, posizioni contrarie a rinnovi contrattuali ne abbiamo spesso purtroppo assunte, quindi non è questa la novità, cioè il punto è un altro ed è di linea politica generale del sindacato. Su questa cosa, come dire, io sono perfettamente d'accordo con quello che dice anche il segretario della FIOM, cioè nel senso l'abbiamo detto noi prima del segretario della FIOM naturalmente, e cioè che il problema è il modello sindacale che impone il patto della fabbrica perché è totalmente incapace di permettere di risolvere la questione salariale. Ma io penso che sia a monte il problema, cioè un problema di modello, di linea, che è quello che il sindacato ha assunto dalla concertazione in avanti, dall'abolizione della scala mobile in avanti, che è stato un macello, un disastro. E quindi quello che deve fare il sindacato per affrontare, per risolvere il problema è cambiare linea di 180 gradi. Deve ritornare a portare al centro la questione del salario, la questione della scala mobile, la questione che il salario è una variabile indipendente rispetto a quello che è il resto dell'andamento aziendale, perché altrimenti, come dire, non se ne esce. E al centro di tutto questo deve esserci la ripresa del conflitto di classe, esattamente come ci hanno insegnato i sindacati, il sindacato dell'automotive negli Stati Uniti con la grande conquista che ha ottenuto negli scorsi mesi. Questo è quanto. Compagno, rischi al tuo soldo che non è più un soldo, il posto dove dormi che ci piove, è il posto di lavoro che perderai domani. Allora, siamo di nuovo qui ad Il Pane e le Rose. Per chi si fosse collegato solamente adesso, abbiamo ascoltato l'intervista che ho fatto domenica questa scorsa a Paolo Brini, membro del comitato centrale della FIOM, funzionario FIOM di Modena, cantante anche famosissimo della banda popolare dell'Emilia Rossa, che abbiamo anche ascoltato qui in radio, in live. Chi volesse può andare a sentirsi le puntate delle live fatte anche con altri gruppi musicali, anche le live, altre interviste fatte con lui, se fosse qualche fan sfegatato di Paolo Brini. Comunque, con lui abbiamo parlato di una cosa importantissima, il contratto dei metalmeccanici. Ora, io la faccio molto brevemente. Io condivido chiaramente le parole di Paolo, vi dico subito, ci sono anche alcune cose positive in questo contratto, chiaramente. Io spero di intervistare il prima possibile qualcuno che come Paolo ha partecipato alla trattativa e l'ha vissuta di prima persona. Sicuramente riuscirò a far questo, perché voglio portare anche le ragioni del sì. Ora, io su una cosa sono sicuro, ci sono delle, io il contratto chiaramente non l'ho letto, perché ad oggi nessuno ha la stesura del contratto e il diavolo si nasconde nei dettagli. Questo è importante ricordarlo sempre. Chi come me, dopo 23 anni di sindacato, di accordi, sa benissimo che anche una virgola può cambiare completamente una frase, può cambiare completamente un concetto e può trasformare qualcosa di positivo in negativo o il contrario. Detto questo, vi dico che ci sono delle cose che comunque ne parleremo nella puntata per il sì, possono essere condivisibili, sono buone, Paolo non ne ha parlato, ci sono, giustamente lui ha presentato, gli ho chiesto io di parlare sulle ragioni del no. No, perché lui non le abbia riconosciute, io l'ho sentito, ho sentito il suo intervento in cui lui ha riconosciuto chiaramente alcune cose positive, però come Paolo c'è una questione. È vero che poteva andare peggio, però visto l'impegno che abbiamo messo, visto soprattutto Bologna, ma non solo Bologna, Genova, Ancona e tanti altri posti in Italia in cui abbiamo sfidato denunce, carabinieri, abbiamo sfidato Salvini prima degli scioperi propale, voglio ricordarlo a tutti, perché ripeto, gli italiani dimenticano tutto. Siamo stati noi i primi a entrare in tangenziale senza autorizzazione, è inutile che ce la raccontiamo, ok? E poi, insomma, abbiamo veramente fatto scioperi articolati. De Palma è stato bravo su questo, sulle lotte, ne abbiamo fatte veramente parecchie. Ore di sciopero su ore di sciopero, potevamo fare di più. Su questo fa rabbia, sul fatto che comunque sia di nuovo abbiamo ceduto qualcosa, insomma, l'ultimo contratto non abbiamo fatto manco un'ora di sciopero e siamo riusciti comunque a ottenere un buon risultato. Questo qua non è peggiore dell'ultimo, voglio dirlo, per la mia posizione. Però questa volta abbiamo fatto tante ore di sciopero e c'erano le possibilità, visto anche la lotta dei lavoratori, ma la linea di sindacale è da cambiare, ha ragione Paolo, e speriamo che venga cambiata perché abbiamo bisogno. Sì, io spero che comunque sia una delle cose positive che abbiamo ottenuto la clausola di salvaguardia. Paolo non l'ha spiegato, è una cosa fondamentale, ne parleremo nella prossima puntata. Io spero che da questo contratto almeno la clausola di salvaguardia, che è una delle cose che abbiamo ottenuto, ce l'avevamo già, venga estesa in tutti i contratti, perché è una cosa importante, ossia indicizzare il salario in base all'inflazione. Purtroppo non inflazione reale, ma l'IPCANEI, che è comunque depurata, però è un aspetto importante. Ecco, alla prossima puntata, sperando di sentire le ragioni del sì, altrimenti parleremo di altro. Alla prossima!